suonate la marsigliese. Suonatela. Suonatela. E allora 18 e 24 minuti primi, venerdì 18 di novembre 2011, all'ascolto di Radio Onda Rossa e come ogni venerdì a quest'ora all'ascolto delle ore di religione, trasmissione di teologia estrema che quest'oggi ha un ospite d'eccezione. Dopo un paio di puntate dedicate alla storia contemporanea, insomma, ritorniamo sui temi con cui abbiamo cominciato la stagione 2011-2012. Noi abbiamo avuto modo di far filtrare la voce in redazione su chi sarebbe stato ai nostri microfoni quest'oggi e devo dire non per piaggeria, però c'è stata una messe di entusiasmo collettivo, visto che molti sono passati per questa cattedra. Però l'onere e l'onore della presentazione a un tecnico della questione, visto che siamo in tema di tecnici al comando, lascio la parola a Carlo. Allora, chi abbiamo qui con noi quest'oggi? Ci abbiamo con noi Rodolfo Calpini, che è un filosofo che ha insegnato a Villa Mirafiori all'Università della Sapienza di Roma e che in particolare si occupa da molti anni di studi legati all'attività missionaria della Chiesa Cattolica. La terminologia adatta è missiologia, che è una disciplina che è insegnata nelle università appunto cattoliche ed è la punta di diamante di tutto l'apparato, diciamo, di questa agenzia dell'orrore, del dolore, tutto quello che conosciamo e che abbiamo detto in tante di queste nostre trasmissioni. E di che ci parlerà? Oggi l'abbiamo fatto venire perché in anteprima mondiale il suo libro sarà pronto nel 2012, lui tornerà, ancora bisognerà capire, definire adesso l'editore, ma insomma siamo già prenotati. Però in anteprima mondiale dal libro noi prendiamo un argomento che ci è sempre stato a cuore, a noi della trasmissione, perché parliamo di quello che accade dopo il 1492, quando improvvisamente giungono notizie in quello che diventerà appunto il vecchio mondo, di questo che è appunto il nuovo mondo, viene descritto questo nuovo mondo. In realtà uno dei principali problemi, come noi sappiamo, è stato dato dal fatto che non c'erano notizie di queste terre nella letteratura tradizionale biblica. Non c'erano ovviamente notizie degli abitanti e quindi i primissimi anni di discussione attorno a questi eventi vertevano sulla addirittura umanità o meno degli abitanti di questo nuovo continente. E sappiamo anche che insieme allo stesso Colombo, sin dal primo viaggio, c'era una presenza religiosa essenziale per il costume dell'epoca e anche per le intenzioni ovviamente della Chiesa Cattolica di evangelizzare i popoli, come nel versetto di Matteo che veniva brandito e che viene brandito come lo strumento che legittima questa azione. A questo punto, in questi anni, abbiamo parlato anche noi del fatto che è un sacerdote, un uomo della Chiesa che fa per primo un documento di denuncia, e la Scasas, è talmente orribile quello che avviene che c'è una reazione. Allora, da questo momento c'è una famosa disputa proprio con la Scasas, ci sono dei teologi che vengono chiamati a discutere di queste cose, e uno è Francisco di Vittoria, che è centrale, perché in questo scenario si delinea la necessità di quello che poi noi oggi chiamiamo e studiamo nelle università di tutto il mondo, tutti lo studiano perché è necessario, il diritto internazionale è la regolazione di rapporti, ovviamente il diritto internazionale moderno, Grozio, insomma, questo è un periodo importantissimo per la cultura occidentale, si va strutturando in questo periodo, e darà origine, l'abbiamo anche noi affrontato, a una visione più laica del mondo, ovviamente. In questo scenario, ripeto, il teologo di Vittoria, di Salamanca, mi sembra, opererà nel modo che adesso Rodolfo ci racconterà. Ma la prima domanda che facciamo a Rodolfo è proprio questa. Il passo di Matteo, il passo evangelico, ce ne parli un po', spiegaci, facci capire perché viene utilizzato quel passo sull'evangelizzazione e in questo periodo come viene utilizzato e come si muove la Chiesa di fronte alla novità di questi nuovi popoli, e quindi al passaggio da il requerimento a quello che invece è il nuovo modo di evangelizzare, di relazionarsi. Sì, la questione importante è proprio questo senso di sorpresa, di meraviglia che la scoperta di Cristoforo Colombo pose a tutto quanto l'Occidente. L'Occidente, quando si accorse delle enormi ricchezze che queste terre possedevano, fece quello che aveva fatto sempre, cioè giustificò la conquista attraverso i vecchi schemi medievali. Cioè Dio è padrone del mondo, l'ha creato, per cui è padrone, ha dato tutti quanti i poteri al Papa, il Papa li ha dati all'imperatore, per cui praticamente il Papa può decidere se queste terre sono direttamente sue o possono essere affidate ad altri. E questo fu stabilito nelle due encicliche Inter Cetera del 1493, immediatamente dopo la scoperta. Queste encicliche che cosa dicevano? Diamo questi nuovi spazi al re di Spagna, e però devono portare avanti l'evangelizzazione. Perciò l'evangelizzazione era il prezzo di queste terre. E tutto quanto questo era espresso nel requerimento, cioè è detto in italiano una intimidazione che i conquistatori facevano di fronte ai villaggi, e ovviamente questa intimidazione era fatta in spagnolo. I poveri indios non capivano assolutamente niente, però questa stessa enunciazione già legittimava l'attacco successivo. L'attacco avveniva e loro erano o sterminati o resi schiavi, secondo i casi. Naturalmente tutto quanto questo non poteva andare avanti, perché gli stessi spagnoli ridevano di questa forma esterna di giustificazione. E allora, diciamo, per tante ragioni che poi diremo, De Vittoria usò, diciamo, tutto il sapere di San Tommaso, prima aveva insegnato a Parigi, poi andò a Salamanca, per creare una giustificazione che permettesse, senza ricorrere ai vecchi schemi, di trasformare chiaramente un'aggressione in una difesa personale, per cui l'aggressione diventava misteriosamente una guerra giusta. E solo in questo modo, diciamo, il volto pacifico della cristianità poteva essere difeso, altrimenti c'erano i passi evangelici che dicevano che di porgere l'altra guancia e di perdonare, e non si poteva difendere una tale schizofrenia, diciamo, dal punto di vista del diritto, un diritto internazionale che non era proprio internazionale, nel senso che loro partivano dalla concezione di una cristianità che occupava tutto quanto il mondo, non avevano nemmeno l'idea di un'autonomia. Questa autonomia fu creata da De Vittoria molto parzialmente, ma fu creata per una ragione precisa, perché i conquistatori diventati proprietari di terre e di schiavi, cioè gli indios, poco a poco non volevano più pagare la percentuale del 5% di tutto quello che guadagnavano al re di Spagna. E questo era un grande pericolo. Questo spiega perché uomini come Las Casas e De Vitoria furono sopportati da Carlo V, perché c'era il problema dell'indipendenza che prima o poi gli encomenderos, cioè i proprietari di terra, avrebbero voluto, e in effetti poi vollero. La grande strategia di De Vitoria fu di ritardare l'autonomia di queste province della corona, ritardarle di qualche secolo, però poi alla fine l'autonomia venne. E questo spiega perché Carlo V tutto sommato sopportò tutto quello che diceva Las Casas e parzialmente anche quello che diceva Vittoria. Però per fare questo bisognava ad un certo momento creare un diritto. E allora il bravo De Vittoria cosa fece? Si inventò un diritto che chiamò naturale, un diritto nuovo, cioè il diritto di comunicare, lo ius communicationis. E questo diritto che cosa diceva? Che gli spagnoli avevano il diritto di andare su qualsiasi terra, di colonizzarla, di colonizzarla, e soprattutto avevano il diritto di predicare. Questo era un meccanismo giuridico per creare la giusta causa della guerra, perché secondo la dottrina di San Tommaso solamente se si fosse avuto un'offesa a questi diritti, gli spagnoli avrebbero avuto a loro volta il diritto di attaccare. È chiaro che il meccanismo era addirittura banale, molto semplice. Gli spagnoli arrivavano, avevano ucciso gente indifesa, avevano rubato, avevano ammazzato, avevano stuprato, e ad un certo momento è chiaro che gli indios, per quanto fossero curiosi delle novità portate dagli spagnoli, e cioè non fosse altro che i cavalli e la polvere di sparo, a un certo momento cominciarono a ribellarsi quasi immediatamente. Anzi, a dir la verità, gli spagnoli gli indios si ribellarono, ma fu uno stesso Domenicano Montesinos che nel 1511 disse: qui stiamo facendo una strage totalmente ingiustificata. Cioè la coscienza di questa strage, che adesso chiamiamo genocidio, l'avevano in una maniera lucidissima. Lo stesso De Vitoria scrisse nel 1534, cioè 4-5 anni prima di fare questa grande lezione che era il De Indis, intorno agli indiani recentemente scoperti, scrisse una lettera al suo superiore dicendo: ma come si fa ad assolvere i soldati di Pizarro, questi Perulerus, così come erano chiamati, con un senso un pochino di sfida e di disprezzo, quando loro stessi confessano che hanno ucciso una popolazione totalmente indifesa, spaventata, senza nessuna ragione, dopo aver rubato l'oro e aver fatto ogni forma di violenza. Per cui lo stesso De Vitoria, e qui non è molto chiaro nei libri, che parlano, libri ovviamente di impostazione cattolica, che parlano di questo problema, lo stesso De Vitoria era lucidissimo su questo. Però, ovviamente, poi alla fine, con le 8 ragioni legittime che elencò e con questo diritto di comunicare, giustificò tutto quanto quello che era già successo, così come voleva il Papa e così come voleva Carlo V. Ok, adesso ci fermiamo un momento con un contributo musicale e poi riprendiamo da qui il racconto. Sì, così più che contributo musicale, diciamo, introduciamo i suoni di queste popolazioni native, perché cosa molto difficile è proprio ricostruire il patrimonio musicale di questi popoli, proprio perché gli strumenti sono stati per lo più distrutti. Nel 2008 un ingegnere messicano che si chiama Roberto Velázquez ha pubblicato un insieme di suoni che ora vi facciamo sentire, ricostruiti filologicamente a partire da dei materiali rinvenuti in tombe e in resti archeologici che risalgono addirittura al 400 a.C. Quindi adesso sentiamo una serie di suoni prodotti con degli strumenti che sono composti di creta, piume di tacchino, canne da zucchero e pelle di rana addirittura, e non hanno niente, non hanno niente da invidiare, diciamo, alle più ardite sperimentazioni di musica contemporanea o anche elettronica, insomma. Quindi sentite. Avete sentito? Poi li risentiremo in forme proprio musicali, perché abbiamo altri due contributi, uno della tradizione Inca e un altro della tradizione Maya. Quindi questo è un tentativo di ricostruire qualcosa di perduto, perché adesso dai materiali originali. Noi non l'abbiamo accennato, ma Calpini si è occupato anche ovviamente di museologia e il museo ha una funzione particolare nel rapporto che c'è con questi oggetti che provengono da questo genocidio. Poi forse vogliamo dire subito qualcosa su questo, brevemente, poi riprendiamo direttamente la vittoria, o vuoi proseguire con il discorso? Ci arriviamo dopo. Se posso permettere, ecco, semplicemente una cosa, proprio rispetto al discorso dei musei, questo ingegnere Velázquez ha preso degli oggetti che venivano, di cui non si conosceva la funzione, proprio nei musei, tra cui per esempio un oggetto che si chiedeva fosse il pettine di una donna, e appunto perché fu trovato da vicino ad uno scheletro, e infatti venne chiamato la sorta di canna della morte, però non si capiva bene a cosa servisse, perché non c'erano buchi, era evidentemente un flauto però senza fori, per cui facendo delle ricostruzioni in base alla letteratura storica appunto è arrivato a togliere questo oggetto dal museo, quindi da una forma statica e chiusa di conoscenza, e riportarlo in vita sostanzialmente. Allora, adesso dice, dunque, allora, sulla questione dei musei ci arriviamo dopo, perché tanto ci arriviamo con Rodolfo, forse poi dovrà pure tornare probabilmente, quindi ci accorderemo dopo. Beh, adesso lui partirà per lavoro e tornerà, diciamo, a febbraio lo avremo comunque di nuovo con noi. Adesso procediamo, allora, con il cammino di questo della ricostruzione di questo momento fondamentale per gli eventi successivi della maturazione dell'esperienza missionaria cattolica, che da qui diciamo determinerà la costituzione proprio di un paradigma potentissimo, a partire dalla fondazione di organizzazioni per la stampa dei libri, quindi in molte lingue. Ormai hanno ceduto, diciamo, rispetto alla questione del volgare dopo Lutero, e quindi si adattano anche loro, e ovviamente proprio la propaganda fide, e quindi vedremo l'evoluzione e le università, perché si strutturerà un apparato proprio educativo in questo senso potentissimo, e vedremo l'importanza anche dei gesuiti per quanto riguarda la costruzione degli esperimenti che venivano fatti sul territorio di sedentarizzazione forzata che poi hanno prodotto la società strutturata delle future nazioni latinoamericane, quindi trasformando radicalmente la vita di queste popolazioni che erano molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi, gruppi di cacciatori raccoglitori semi-nomadi, con una grossa capacità di organizzare la loro caccia su un territorio vastissimo, e in alcuni casi c'erano anche dei gruppi di piccoli coltivatori del mais, ovviamente, che però stanno in aree diverse dall'America più centrale, quella che conosciamo noi, di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate. Ma De Vittoria in pratica come organizza questo diritto? Cioè, su cosa si fonda il fatto che è possibile rivendicare quelle terre? Ovviamente viene riconosciuto a tutti i regnanti che Dio ha veramente creato il mondo, e quindi come funziona? Perché non siamo al diritto positivo, arriverà molti secoli dopo, ci vuole la rivoluzione francese per... Certo, quella è la rivoluzione. No, la questione è semplice e tragica nello stesso momento, perché De Vittoria fece una mossa importante dicendo che la terra era degli indios. Il Papa e l'imperatore non ne potevano disporre. Questo perché lo fece? Perché se il Papa e l'imperatore avessero potuto disporre della terra, anche la Francia era in pericolo. Era un momento in cui gli stati nazionali stavano nascendo. Se passava dal punto di vista teologico, che era quello più importante all'epoca, certo, il principio che la terra poteva essere a disposizione del Papa, perché lui rappresentava il creatore, e allora a questo punto saltavano tutti quanti gli accordi, e ricordiamoci che c'era sempre il pericolo che poi si concretizzò in Lepanto, pericolo alle porte di Vienna, diciamo. Ecco, allora che cosa successe? Che questa mossa di De Vittoria fu ben vista dall'imperatore, perché a questo punto padrone di quelle terre non direttamente non erano gli encomenderos, cioè i conquistatori che poi erano diventati proprietari, ma era la corona di Spagna, e a questo punto era allontanato il pericolo dell'indipendenza delle colonie. L'altro problema che risolse De Vittoria, ma ovviamente sulle spalle dei conquistati, era quello di giustificare questo massacro che non aveva precedenti, perché la giusta causa, secondo San Tommaso, era data da un'offesa. Ma che offesa potevano fare queste popolazioni che non erano nemmeno conosciute? Anzi, avevano salvato il Cristoforo Colombo che era arrivato su quella spiaggia. Per cui era questo marchingegno giuridico-teologico del diritto di comunicare, è veramente qualcosa, nel linguaggio di Las Casas, diabolico. Perché? Perché ovviamente si creava una maniera con cui si poteva creare la giusta causa. Cosa voglio dire? Gli indios non accettano la predicazione, non accettano di farsi colonizzare, non accettano di lavorare nelle miniere, non accettano di lavorare nei campi, perché certo nessun conquistadores lavorava, devono lavorare loro. A questo punto cominciano delle ribellioni, per quello che potevano essere queste ribellioni, ovviamente molto limitate, e questa è la giusta causa. Loro non accettano un diritto naturale, e a questo punto gli spagnoli possono attaccare. A questo punto la guerra diventa giusta, ma non solo la guerra diventa giusta perché questi maledetti indios resistono, guarda caso, ma diventa giusta perché c'è il passo 28, il capitolo 28 di Matteo, che De Vittoria mette proprio all'inizio della sua lezione magisteriale intorno agli indios recentemente scoperti, che dice: andate e convertite tutte quante le nazioni. Ora, la cosa strana che vale la pena di dire subito, per far vedere la falsa coscienza di questa gente che ha giustificato la guerra in questo modo, in particolare di De Vittoria e di tutta una certa teologia dell'epoca. Per rapinare ricchezze e terra proprio, certo, a certo, milioni di chilometri quadrati. Senza quasi assolutamente combattere. Insomma, sterminavano solamente, no? Sì. E uccidevano continuamente, insomma. E questa coscienza si creava appunto su questo passo evangelico. Questo passo evangelico è disastroso, anche perché sempre nel Vangelo di Matteo, se noi andiamo al capitolo 10, il Vangelo di Matteo è quello più missionario, se andiamo nel capitolo 10 c'è scritto precisamente che se gli apostoli vanno in una casa e da questa casa sono rifiutati, debbono uscire, come si diceva una volta, scuotendo la polvere dai loro calzari. Adesso la traduzione è diversa, ma dice questo. Cioè c'è un inizio di rispetto dell'altro anche nel Vangelo di Matteo. Questo passo, che metterebbe in crisi l'altro passo, o che dovrebbe essere visto insieme all'altro passo, andate e predicate, nei libri di teologia, nella facoltà di missiologia, in particolare della Gregoriana, qui a Roma, che è il centro pulsante, qui anche all'Angelicum, anche all'Urbaniana, eccetera, non viene preso in considerazione. È come se quel passo fosse cancellato. E ovviamente è un passo disastroso per l'aggressione missionaria, è disastroso per l'etnocidio che poi ne consegue, perché dice: uscite da quella casa se essi non vogliono, perché riconosce un'autonomia. Stranamente questo passo è dimenticato. Cioè tutta la costruzione di De Vittoria è una costruzione riconosciuta anche, che è tutta artificiale, perché tutta la patristica e tutti i padri della Chiesa, tutti i teologi, eccetera, è un enorme materiale in cui c'è tutto e il contrario di tutto. Ovviamente De Vittoria che cosa ha fatto? Ha preso quei passi che confortavano l'idea preconcetta che tutto sommato per convertire bisognava usare la coercizione, e la persuasione rimaneva un'ipotesi utopica che fu portata avanti da Las Casas, perché Las Casas ovviamente prima, nel primo viaggio che fece nelle Indie, andò come prete normale, capì la gravità della situazione e facendo parte di una chiesa profetica, non tanto di una chiesa istituzionale, divenne domenicano, perché il primo pericolo che Las Casas vide è quello dell'Inquisizione. Se io da prete comune parlo su questa questione che rimette in discussione la stessa conquista, la stessa legittimità della conquista, e rimette in discussione una visione molto parziale del Vangelo, a questo momento io finisco sotto Inquisizione, bruciato. E allora è chiaro che una volta che lui si fece domenicano, e i domenicani erano quelli che all'epoca, prima dei gesuiti, perché i gesuiti dovranno ancora nascere, stanno per arrivare, perché Loyola 1550 sì. E allora a questo punto doveva farsi domenicano, e facendosi domenicano e facendosi interprete di certe esigenze di Carlo V, riuscì perlomeno a sostenere la tesi, in particolare la sostiene contro Sepulveda nella famosa disputa del 1550, che questi indios dovevano essere convertiti con la persuasione. Ovviamente era utopia, perché alla fine, sia storicamente sia concretamente, aveva ragione Sepulveda, che diceva prima di tutto lo sterminio, perché con lo sterminio c'è la paura, con il miedo, come dicevano gli spagnoli, e dopo allora si può entrare con l'istituzione. Punirli tutti per educare chi resta. Certo, chi resta avrà capito da quale parte sta il potere, forse. Almeno che non sia terribilmente cocciuto, perché poi dopo li bruciano, insomma non c'è problema. Ecco, a questo punto un piccolo ricordo, che è quello di Acosta. Acosta è un gesuita che arriva a Lima nel 1572 e l'etnocidio e il genocidio già stava a livelli altissimi, e lui che cosa fa? Scrive un libro in base alla sua esperienza di gesuita missionario nel Perù, scrive un libro in cui dal titolo De procuranda in dorum salute, cioè come si procura la salvezza degli indios. E in questo libro è un capolavoro di criminalità, perché sostiene continuamente che la Chiesa e le armate dei conquistadores devono lavorare insieme. Non è possibile pensare ad una evangelizzazione pacifica. E chi pensava diversamente, cioè due domenicani e un altro gesuita, due furono bruciati sul rogo, perché lui divenne anche accusatore della Santa Inquisizione e bruciò due confratelli, non dello stesso ordine, ma due domenicani li fece bruciare. Cioè il pericolo che si diventasse lascasiani era terribile, era considerato peggio della peste, perché questo voleva dire che si poteva mettere in dubbio la conquista stessa dell'America, i titoli di legittimità. Per cui, diciamo, l'opera di De Vitoria è veramente perversa, perché toglie i vecchi motivi della colonizzazione, ne crea di nuovi e li crea in una maniera inoppugnabile dal punto di vista del cristiano, perché c'è un diritto naturale, che è il diritto di comunicare, e poi c'è un diritto divino, che è il passo 28 del Vangelo di Matteo. È una macchina distruttiva di una violenza inaudita, è impossibile da fronteggiare perché ancora gli strumenti non c'erano. Adesso vediamo come si attrezza il pensiero critico dopo la pausa musicale seconda. Dove volete andare? In Messico dai Maya o in Perù dagli Inca? Andiamo in Perù. Andiamo in Perù dagli Inca. Allora, quindi lui ha più, ma in realtà insomma, più amici peruani. Allora, ci andiamo a sentire una musica funeraria, che si chiama, ora diciamo, il mio Inca è un po' rugginito, agli arasci, insomma. E praticamente è una composizione che parla di come il corpo del morto raggiunge Pachamama, ovvero la madre terra. Pachamama. Quindi io direi di iniziare subito, insomma, poi magari diciamo due cose proprio in generale sulla musica negli Inca. Thank you. insomma, l'avete riconosciuto, è il flauto di Pan Flute, che è uno degli strumenti tipici, specifici. Diciamo che la musica inca era divisa, come da un punto di vista di strumenti, soltanto tra percussioni e fiati, non c'erano strumenti cordofoni, diciamo, la funzione della musica era triplice, ovvero accompagnava le battaglie, un po' come anche l'impero romano, insomma, molte altre culture, e abbiamo sentito quella dei riti funerari e in generale i riti religiosi. E quello che costituiva il tema principale era l'incontro o attraverso la trance all'interno dei riti religiosi o appunto, come abbiamo visto, nei riti funerari, l'incontro tra gli individui e le divinità. Quindi la musica serviva proprio per trasportare, come fosse una sorta di droga sostanzialmente, l'uditorio ad uno stato di estasi e che quindi gli permettesse di partecipare alla totalità del rito e quindi vivere pienamente il senso religioso del comunitario. E non so se vogliamo. Adesso ritorniamo. E dunque, Rodolfo mi aveva parlato quando abbiamo un po' preparato la trasmissione, che lui, diciamo, nel lavoro del libro aveva recuperato, scoperto frammenti, documenti, e ci ha portato così anche un qualche brano proprio dell'epoca che lui legge e commenta per un po' farci entrare anche nel clima proprio veramente culturale lì, attraverso il linguaggio che veniva usato in traduzione, perché spesso questi testi sono in latino oppure in lingua spagnola, perché prodotti da cattedre di teologia del Rinascimento iberico, o appunto in latino se fossero invece documenti o encicliche del Santo Padre o dei santi padri. E quindi raccontaci un po' che cosa dicono di questi indios nei loro testi. La questione, se questo, diciamo, inizialmente non si sapeva nemmeno se avevano un'anima, per cui insomma probabilmente erano una specie di scimmie strane che stavano su queste terre, per cui tutto era permesso. Però ovviamente quando arrivavano i primi rapporti sulla civiltà inca, sugli azzechi, ad un certo momento questa tesi non poteva essere sostenuta, perché molti dicevano: sono quasi più evoluti di noi, che cosa diciamo? E allora il problema era quello di giustificare questo attacco attraverso il concetto dell'idolatria. Non adorano il nostro Dio, lo offendono e poi fanno atti disumani sotto ogni punto di vista, per cui possono essere attaccati e giustificati. Ad un certo momento questa coscienza crebbe attraverso anche un pochino l'opera di Las Casas, che diceva delle cose orribili su quello che facevano, e diceva: la responsabilità è vostra, insomma, anche quella del re o dei sacerdoti. E ad un certo momento Paolo III, il papa dell'epoca, nel 1538 mi pare, un pochino più in là, fu costretto quasi dall'evidenza dei fatti a fare un'enciclica, Sublimis Deus, in cui affermava che gli indios avevano un'anima e che non potevano essere fatti schiavi. Ora, ovviamente, pensate che non stiamo all'epoca di internet in cui una cosa si sa immediatamente. Carlo V si rese conto di questa enciclica un anno dopo. E allora che cosa fece? Ebbe un appuntamento col Papa a Nizza, in un convento vicino a Nizza, e gli disse chiaramente: ma che cosa hai fatto? Ma ti rendi conto che se tu dici che me l'hai che fatti questo, umani, che questi indios hanno un'anima come noi, e per di più non possono... Sono proprietari delle proprie terre e non possono essere resi schiavi, crolla tutto, perché l'armata spagnola è finanziata da questo oro e da questo argento. E chi tira fuori l'oro e l'argento? Tirano fuori gli indios. Ecco, a questo proposito vi ricordo che c'è uno studio recentissimo di un team di studiosi tedeschi che dice che i morti in schiavitù che sono stati fatti a Potosí, che era la più grande miniera di argento dell'epoca, sono 8 milioni. 8 milioni. E lo stesso Acosta, che andava a visitare per conto del viceré Toledo queste miniere, disse: è una cosa orribile quello che succede. Dice: però in compenso ciascun indios che muore, e morivano come mosche, pensate, 8 milioni, diciamo in 100 anni viene calcolato, che cos'è? Hitler impallidisce rispetto a questo, un dilettante. Però hanno sempre il prete che gli dà l'estrema unzione. Questo è il ragionamento, a dire poco, cinico di Acosta, che vede l'enormità dello sterminio, l'ingiustificazione assoluta di tutto quanto questo. Ma l'anima che gli ha dato Paolo III è salva. È salva. Ecco, gli viene concessa l'anima, però questa anima si può salvare. Ecco, a questo punto una domanda che ci dobbiamo porre, certo, è come mai un sistema così cinico, così crudele, così impensabile, si copre e come direbbero gli spagnoli, si disfrazza de corderito blanco, cioè si copre di agnello, della pelle dell'agnello. Ecco, come fa? Perché lo stesso Las Casas lancia delle accuse fortissime, però alla fine, quando discute con De Vittoria, con Sepulveda, Nella disputa famosa, sì, di Valladolid, nella disputa di Valladolid. Si sa benissimo, io sono stato a Valladolid, che alla fine il vincitore fu Las Casas, per cui non c'era, anche per altri teologi dell'epoca, non c'era nessun motivo di aggredire in questa maniera. Però ovviamente era logico, e noi adesso lo vediamo, che la persuasione era impossibile esercitarsi, perché se tu prima di tutto attacchi, saccheggi e fai uccisioni, è ovvio che gli altri prima di tutto sono convinti dalla tua malvagità, non dalle parole che tu dirai dopo. Ecco, a questo punto c'è la domanda, è questa: come mai questo sistema missionario va avanti, è andato avanti per 5 secoli, diciamo per 2000 anni, da Costantino in poi? Però inizialmente questo problema non si poneva, perché i primi 4 concili ecumenici furono emessi con l'autorità dell'imperatore, per cui passare da quello che si chiamava paganesimo al cristianesimo fu totalmente normale, perché l'imperatore voleva così. Il problema si è posto dopo, con la scoperta delle Americhe. Questo avveniva, diciamo ai nostri ascoltatori, avveniva su terre note. Quello che tu stai dicendo, prima del 1400, avveniva romano, su un mondo che era l'impero romano, e poi man mano l'espansione era tutte riconosciute. C'era l'espansione di Roma, che voleva anche dire l'espansione della Chiesa. Dopo però, quando andarono nelle cosiddette Indie, non c'era un imperatore, e per cui bastava convincere l'imperatore delle Indie e tutti diventavano cristiani. No, erano diversi imperi molto articolati fra di loro e su spazi enormi. A questo punto il volto vero del cristianesimo si è rivelato, cioè un volto di odio, un volto di distruzione e un volto di genocidio, perché poi in fondo fu questo, e la Chiesa fu responsabile non direttamente di genocidio, ma educava chi faceva genocidio. E d'altra parte la vera conquista dell'America non è stata tanto quella della corona nella Spagna, che l'ha permessa fino a un certo punto, ma sarebbe poi caduta se non ci fosse stata l'opera continua dei missionari che andavano lì e rimanevano. I missionari non erano come soldati che poi andavano via, rimanevano 20, 30 anni, 40 anni in continuazione, attaccando le abitudini, i modi di vedere, i modi di rispettare gli antenati, che costituivano la forza di quella civiltà, di tutti quanti gli indios. Attaccando quella, ad un certo momento creavano un vuoto e in questo vuoto artificialmente mettevano la dottrina cristiana. E questo è stato terribile. Ecco, perché però è continuato tutto quanto questo? È continuato perché lo spirito missionario è come un virus, come si attacca alle civiltà in cui viene a trovarsi, si nutre di loro, per cui è molto importante per i missionari essere anche antropologi e basarsi sugli studi di antropologia. Questo tutto l'Ottocento lo ha dimostrato, la colonizzazione dell'Ottocento è basata da una stretta collaborazione fra militari e missionari, perché in fondo quello che va capito è che la forza viene dalla unione, come si dice sempre, delle tre M: missionari, militari e mercanti. Mentre diciamo nel Medioevo la figura del crociato riassorbeva e riuniva queste tre funzioni, dopo queste tre funzioni si sono specializzate. Il missionario è disarmato, però è sempre seguito o preceduto dal militare, e il militare ovviamente deve essere sostenuto dal mercante, per cui queste terre vanno sfruttate, danno ricchezza, questa ricchezza si distribuisce fra i militari e i missionari, e alla fine quello che faceva il crociato una volta da solo lo fanno questi tre ruoli. Ovviamente non è detto che questi tre ruoli vadano sempre d'accordo fra di loro, possono anche esserci delle tensioni, perché ogni ruolo vuole un'esclusiva di per sé. Il mercante vuole fare tutto quello che vuole, il militare anche e il missionario anche. Ecco, però alla fine, si è visto nella colonizzazione di tutti quanti dell'Africa, delle Americhe, dell'Asia, questi tre ruoli si compenetrano e si aiutano fondamentalmente uno con l'altro. La grande forza di questi tre ruoli è l'ambiguità, perché diciamo loro si presentano come progresso, come civilizzazione, che è vista come assolutamente necessaria, e anche i papi hanno detto molte volte: sì, riconosciamo queste colpe, però il compenso che questi popoli hanno avuto è grande, hanno conosciuto Cristo. Cioè loro sostengono che Cristo è stato, deve essere presentato e deve essere conosciuto e rispettato al prezzo della vita. La conclusione anche teologica che viene fuori, che la conoscenza del Cristo è più forte e più importante della vita stessa. E questa è il senso della provvidenza, così, perché molte volte a costa o i grandi estirpatori che ci sono stati nel 500-600 di idolatrie dicevano questo, e in fondo ne uccidiamo tanti, sacrifichiamo tanta gente, però quella che rimane è la conoscenza di Cristo. E in effetti da questo punto di vista tragicamente avevano ragione, perché il genocidio è stato valutato in 300 anni di 80 milioni di persone, di cui solamente il 10% per malattie. Però alla fine noi abbiamo adesso un Sud America, per non parlare poi del Nord America, che quando noi in Italia manchiamo di sacerdoti, noi abbiamo sacerdoti peruani. Cioè diventa una grande riserva, abbiamo sacerdoti africani e sacerdoti sudamericani. Per non parlare poi di quello che è successo nel Nord America, in cui il concetto di missione è stato preso proprio in chiave protestante ancora in una maniera più dura, perché lì non c'è stato nemmeno la possibilità di mescolamento fra la parte bianca e la parte indiana. Lì hanno sterminato direttamente e le cose sono ancora più tragiche. Tutta la creolizzazione che si è determinata invece nel Latino America non c'è. Ecco, allora, però, ecco la questione per cui io vedo questa forma missionaria come una forma virale è che quando si attacca ad una civiltà ne succhia il sangue, ne succhia le energie, si identifica. Ecco la grande importanza del concetto di inculturazione. Dal 1970 loro hanno preso il concetto di inculturazione dall'antropologia e hanno detto: noi dobbiamo inculturare. Cosa voleva dire inculturare? Vuol dire soprattutto che quello che è successo con l'incarnazione, cioè che Dio ha preso la natura umana, così deve succedere con le culture. Noi dobbiamo entrare dentro le culture come Dio è entrato nella natura umana. E siccome la natura umana... Perché si è incarnato nel Gesù della croce. Noi dobbiamo essere incarnati dentro. Questo è di una criminalità assurda e diciamo è quasi impensabile. La struttura logica è quella dell'analogia. Sì, certo, tutta la teologia è fondata su ragionamenti analogici, però adesso col Vaticano II le cose sono molto più peggiorate, perché prima c'era il passo 28 di Matteo, adesso c'è che è stabilito nel decreto Ad Gentes che noi dobbiamo entrare nelle culture, noi cristiani dobbiamo entrare nelle culture così come Dio è entrato nella natura umana. Cioè, praticamente dicendo, la natura umana è peccatrice. Peccato Agostino. Originale, Sant'Agostino. E allora va corretta. E va corretta in tutti e due i modi. Cioè, quali sarebbero i due modi? Va corretta perché c'è l'opera del diavolo. E va anche corretta nel senso che Dio, questo secondo un'altra teoria teologica, ha messo dei semi di Dio, semina verbi, per cui questi semina verbi richiedono un intervento del missionario, come anche i semina diavoli, pure i semi del diavolo richiedono l'intervento del missionario, per cui da due parti i missionari si sono create le ragioni per intervenire sulle culture e distruggerle, sia perché sono opera del diavolo sia perché sono anche opera di Dio, per cui non c'è modo di salvarsi da questa tenaglia terribile. La natura umana e la cultura umana è corrotta. Quest'idea del peccato originale è un cavallo di battaglia di tutte le missioni. E di Troia. Certo. Cioè, nel senso che serve per entrare e invadere praticamente. Ma per entrare serve il corderito blanco, cioè la pelle dell'agnello. Per questo che le università... Sul corpo del lupo. Per questo le università, per questo diciamo le officine, le scuole, gli aiuti, i lebrosari, tutto quanto questo è il prezzo che il sistema cristiano deve pagare per poter entrare, per cui fanatizza le suore, i preti, il sacrificio, anche a costo della propria vita, però... Questa gente in buona fede, certo, effettivamente fa parte di un piano generale che è terribile, perché si presenta come aiuto a quelle popolazioni che sono state distrutte dai cattolici, dai cristiani stessi, sono state ridotte in quella situazione lì. Guarda, io ti fermo un attimo perché voglio ricordare una scena che a me mi ha turbato e credo anche a te, ne abbiamo parlato. Una scena pubblica che si può vedere su YouTube, perché io ricordo più di una, ma questa in particolare. Intanto ricordiamo che Wojtyla, appunto, proprio per quello che diceva prima Rodolfo, ha rilanciato, perché lui ha parlato proprio di rievangelizzazione, perché poi sono successe delle cose in questi 500 anni e quindi qualcosa si è perduto e lui ha dovuto ritornare. Il primo viaggio da Papa eletto nel 79, a pochi mesi dall'elezione, è proprio nel Salvador, Sud America, e lì da lì saranno decine i viaggi per un pontificato di 25 anni. Una volta, un viaggio diciamo della fine degli anni 80 se non ricordo male, lui riceve dei minatori e c'è tra questi un minatore che è chiaramente un nativo, ai caratteri somatici che sono quelli tipici delle popolazioni, mi sembra in Cile, sì, delle popolazioni del luogo, quindi i discendenti dell'impero Inca, che con abiti tradizionali, ripeto, con le fattezze classiche, con le lacrime agli occhi chiede di essere liberato dalla schiavitù della miniera a Wojtyla, che lo riceve sul palco e lo abbraccia. Questo è esattamente vestito di bianco, ovviamente, d'agnello. Esatto, quello è esattamente questa scena, tu l'hai detto, hai detto che cosa significa, e noi la vediamo tutti i giorni, ma questa che ho riscritto io, che è nota, si trova appunto su YouTube, è l'assoluto, perché abbiamo lui, questo 500 anni dopo, il nativo, che va da questo, dal capo di tutti questi, vestito di bianco, il capo assoluto, che è Dio in terra, lui dice di essere portavoce, quindi una specie, un vice Dio proprio, e gli chiede di liberarlo dalla schiavitù del lavoro, dalla miniera, da quella terribile condizione, perché questi stanno, scusa, a miniere a cielo aperto, l'avete visto, sono le foto di Salgado, sono mostruosamente ricoperti di fango, terra, e provati e piegati da un lavoro non so di quante ore al giorno, diciamo tutto l'arco del tempo di luce. prego. Sì, però appunto c'è questo, interessantissimo quello che hai detto. La questione è che non si capisce come non ci sia una ribellione rispetto a questioni così, così chiare. La Chiesa ha risposto giustamente, tra virgolette, a tutto quanto questo, dicendo: io mi pento. E ci sono state una serie straordinarie di atti di richiesta di perdono, specialmente da Papa Wojtyla, su tutte quante le... Cioè, io non, dicendo queste cose non invento niente, perché insomma il Papa stesso l'ha detto: abbiamo peccato, abbiamo sbagliato su questo, abbiamo sbagliato. Ma gli uomini, non la Chiesa. Ecco, allora qui... Perché la Chiesa appunto, è l'estensione del corpo. Quello che io ho chiamato perdonismo. Perché perdonismo? Perché è facile domandare perdono. Ma a chi? E a parte a chi, però io Papa mantengo la mia teologia e dico che questi sbagli non sono colpa della teologia, certo, che io professo, ma sono colpa di uomini che hanno sbagliato. A questo punto stiamo davanti ad una situazione in cui si domanda perdono per liberare la futura evangelizzazione dai cadaveri che io Papa ho distribuito per tutta quanta la terra. Però l'arma mia, io me la tengo molto salda nelle mie mani, e l'arma mia è la teologia, è il fatto che io posso interpretare quello che Dio vuole e io posso imporlo adesso attraverso un dominio economico, Marcinkus a parte, a quasi tutto il mondo, perché ormai ho creato, tramite i concordati specialmente in tutte le nazioni cattoliche, un sistema in cui io, come cristiano, sono privilegiato. Le altre religioni non hanno gli stessi privilegi miei. Il concordato dice, tutti i concordati dicono, la religione cattolica ha questo e questo diritto, soprattutto il diritto di insegnare nelle scuole, magari con gli insegnanti di religioni scelti dal vescovo e pagati dallo Stato. A questo punto, se fosse minimamente sincero il Papa quando domanda perdono, dovrebbe abolire per prima cosa tutti i concordati e dire: questa religione è uguale alle altre religioni, per cui tutto quello che si dice sull'ecumenismo è totalmente falso, perché è chiaro che lui lo dice da una posizione di favore già acquisita da millenni, praticamente da due millenni, una posizione di favore, e a questo punto ovviamente il suo potere è tanto che alla fine tutti i capi delle altre religioni considerano quasi un onore. Adesso c'è stata questa riunione ad Assisi e per la pace, dove il Papa ha detto mai più guerre, tutti quanti insieme con lui, però l'armamentario che produce la guerra e che allontana dalla pace, cioè l'esigenza assoluta di voler convertire, il dovere di voler convertire con qualsiasi mezzo, non è stato dimesso. E se questo armamentario, che è quasi come un armamentario atomico, e diciamo facendo l'equivalente, finché rimane, il cristianesimo non sarà mai credibile, deve prima di tutto dire: io sono una delle tante religioni. Però questo vorrebbe dire il relativismo culturale, e si capisce che tutta una religione fatta sull'assoluto monoteismo di una verità rivelata solamente ad una civiltà, guarda caso, quella greca, ebraica, romana, e le altre devono prima passare per questa porta culturale e poi dopo convertirsi. A questo punto c'è il dominio del mondo che aspetta e basta. L'ultimo contributo musicale. L'ultimo prima dei saluti, quindi andiamo dai Maya. No, prima dell'ultima domanda e poi chiudiamo. Ah, ok. Allora, quindi andiamo dai Maya, brevemente. Diciamo, tu parlavi della complessità di queste culture native. Per quanto riguarda la musica, i Maya erano arrivati ad un grado di specializzazione, cioè c'erano proprio i musicisti che facevano questo di mestiere, sostanzialmente. Quindi era proprio una divisione sociale del lavoro ad un certo livello e di cui la musica risentiva. E non esisteva appunto una notazione scritta, però esistevano degli ideogrammi, o anche se sarebbe meglio chiamarli geroglifici, credo, per definizione, che permettevano ai musicisti di ricordare qual era la danza, la funzione e i suoni da produrre. L'altra cosa interessante è che i Maya non avevano una parola che indicasse la musica come fenomeno artistico isolato, ma in Mixteco, credo si pronunci così, la parola appunto che indicava la musica era ya, ovvero significa fiesta, poi in spagnolo è stato tradotto fiesta, quindi festa, ovvero qualcosa che coinvolgeva danza, gioco e musica, per l'appunto. Quindi andiamo a sentire un canto, un brano di musica rituale con moltissimi strumenti a fiato, e risentirete quello in forma musicale, quello che abbiamo fatto sentire all'inizio. Siamo tornati, c'è un feedback, okay. Feedback. Mi sembra che c'è tutto il clima della giungla, della foresta, sì, quasi c'è una ricostruzione di un ambiente quasi, diciamo, in queste danze rituali, in questi suoni rituali che forse erano anche conditi da danze. Sì. Prima di chiudere abbiamo 2 minuti, poi c'è il telegiornale, radio giornale. Torniamo a quello che avevamo accennato brevemente, una piccola digressione sulla museologia. Sì, dunque in qualche maniera all'Università di Roma siamo stati l'unico gruppo che si è opposto alle famose celebrazioni per il 500° anniversario. Già. E anche con il contributo di Jolene. E la cosa che ci creava più scandalo non era solamente il fatto che si celebrava un genocidio sostanzialmente, ma che gli oggetti, i reperti, come li chiamavano a quell'epoca, quello che era rimasto di queste popolazioni oggetti di genocidio, doveva servire anch'esso per celebrare e doveva andare dal Pigorini di Roma alle 3 mostre celebrative di Genova. Abbiamo fatto del tutto perché questo non accadesse, abbiamo perfino scritto delle lettere firmate da un gruppo di professori universitari al Ministero dei Beni Culturali, ma del tutto ovviamente inutili. Il problema qual è? Che da questi musei, specialmente dal Museo Pontificio Missionario, che sta in Vaticano, nella città del Vaticano, e da tutti i musei missionari che i vari ordini tengono in Italia, la storia è stata totalmente tagliata fuori. Cioè si vedono queste bacheche con questi oggetti strani, incomprensibili, dove magari c'è solamente un numero di catalogazione, ma la storia di queste popolazioni e perché questi oggetti sono andati lì, di questi musei, in particolare il Pigorini, con il quale abbiamo lungamente discusso, non ne vogliono parlare. Perché? Perché se parlassero della storia, della fine di questi popoli, è chiaro che i primi responsabili immediatamente sono i missionari, perché sono quelli che hanno fatto etnocidio, parte il genocidio. Ecco, allora è chiaro che... Poi sono anche i primi etnografi, nel senso quasi moderno del termine, certo, per necessità. Acosta era anche etnografo, oltre che missionario. Cioè, dovevano capire come sincretizzare, no? È chiaro, perché se tu non conosci non puoi distruggere. Il problema è che non si distrugge tout court, perché altrimenti, diciamo, poi l'anima non si salva se prima non lo converti, l'indios. E allora il problema è mantenerlo in vita, però sottomesso, e allora c'è tutta quanta la storia che adesso diventa sempre più chiara, perché gli stessi spagnoli hanno fatto questa enorme collezione di libri in cui c'è tutta la teologia spagnola del Cinquecento, il Corpus Hispanorum de Pace, che loro lo chiamano un corpo spagnolo di libri sulla pace, e questo è anche abbastanza divertente. Questo è una chicca. Sì, sì, loro parlano di pacificazione, quando è genocidio la chiamano pacificazione. Quindi se uno va in un museo e trova un copricapo di piume, non si sa come è finito lì, chi era il proprietario, che fine ha fatto il popolo, il padrone ha smesso di usarlo. Ma il perché? Perché io, insomma, il perché, esatto. Discutendo sempre a Pigorini o in altri musei, insomma, ho sempre detto: fate parlare la storia, specialmente nelle visite guidate, e chi viene non sa la storia, e allora bisogna riepilogarla, e nessun posto è meglio del museo. Ma siccome questa cosa è stata assunta dal Vaticano in prima persona, perché nel 1925 fu fatta la prima mostra missionaria, e ovviamente la storia era fatta da loro e non c'era problema, perché tutto quello che era aggressione era guerra giusta, tutto quanto quello che era civilizzazione era uguale ad evangelizzazione, per cui non c'era problema. Man mano che le storie sono venute fuori, ma sono venute fuori per una improntitudine e un fanatismo allucinante, perché tutte quante queste cose adesso, o ci sono dei studiosi moderni, e diciamo alla Wojtyla, a Benedetto XVI, molto vicini a questa deriva teologica odierna, che si vantano di tutto quanto questo, perché dicono che tutto quanto questo rientra in un piano divino. In un piano divino, per cui siccome il piano divino è chiamato provvidenza, va sempre per il bene degli uomini alla fine, molto alla fine, diciamo, dico io. E allora praticamente sì, ci sono degli sbagli umani, ma tutto quanto sommato la teologia decide quello che è giusto e quello che non è giusto, e per questo poi ancella della teologia deve diventare la filosofia. Questa è l'encirclica Fides et Ratio. La cosa nuova. La filosofia non è autonoma, ma deve stare alle dipendenze della teologia. E anche l'antropologia. Anche l'antropologia culturale deve essere un'ancella della teologia nella loro visione. Per cui gli antropologi culturali devono stare molto attenti a quello che dicono, e ci sono tanti antropologi culturali, c'è proprio una scuola a Roma che dice: noi ci vantiamo di essere dei servitori del missionario. Per cui siamo noi che diciamo al missionario quello che deve fare, perché noi conosciamo la cultura e sappiamo quali sono i punti in cui questa cultura indigena può essere colpita senza colpire a vanvera. Vabbè. Questa è la situazione. Ci risentiamo, quindi adesso prenderemo l'appuntamento per il 2012, e quindi esattamente per adesso vi lasciamo con l'ultimo brano musicale di oggi. Vi salutiamo perché non ritorneremo in trasmissione, quindi ciao a tutti, grazie. Noi ci vediamo venerdì, mentre appunto con Rodolfo ci risentiremo per il febbraio 2012 con un ritorno su questi temi, perché mancano ancora molte cose che ci dobbiamo dire. Arrivederci a tutti, e ringraziamo prossimo. E chiudiamo con una jota.